insomma, ha avuto una vita durissima, ha vissuto la segregazione razziale, insomma, di questo si affronta abbastanza sia nel testo che nello spettacolo, e anche ha avuto una vita, anche, voglio dire, di una reazione molto violenta con l'utilizzo di droghe, di alcol, insomma, è stata devastata a 360 gradi, eppure si è lasciato un messaggio di forza e bellezza che tuttora è molto valido. Ecco, proprio a questo proposito ti chiedo cos'è di Billie Holiday che apprezzi maggiormente dal punto di vista artistico? Beh, guarda, forse la mia risposta è banale, Strange Fruit, perché comunque è una canzone che è davvero attuale, nel senso che si può ascoltare oggi come si è ascoltata in passato e che noi riproponiamo in scena, e qui insomma voglio parlare di Rodolfo Valentino Puccio, che ha curato tutta la musica, perché questo spettacolo è uno spettacolo musicale in cui c'è musica dal vivo e in cui riproponiamo dei pezzi di Billie Holiday, ma non solo e non soprattutto. Questa è una cosa interessante secondo me, perché comunque Valentino ha fatto delle scelte anche piuttosto coraggiose, ha messo della musica che è anche contemporanea, ma c'è anche del jazz. Poi sappiamo che il jazz si apre all'improvvisazione, alla creatività, alle cose anche impreviste, e queste cose lui ce le fa tutte con un basso elettrico. Quindi lui è da solo in scena e ci ricrea tutta questa atmosfera che secondo me è molto, insomma, serve moltissimo allo spettacolo. Benissimo. Allora, ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più? Allora, noi siamo, innanzitutto potete seguire la nostra pagina che è Patasariba Teatro, dove trovate, a parte, va bene, insomma, tutti i link ai nostri spettacoli e l'appuntamento che riguarda Lady Holiday, che sarà al Teatro Trastevere il 9 e il 10 marzo alle ore 21, e invece l'11 marzo alle ore 17:30. E colgo anche poi l'occasione davvero per ringraziare Vania Lai e Marco Jordan per tutto, insomma, l'accoglienza che ci stanno riservando e il loro lavoro, che è davvero, insomma, non da poco, quindi ci tengo a ringraziarli. Bene, allora un ringraziamento e un saluto ad Alessandra Caputo che ha firmato il testo e la regia, la coregia di Lady Holiday e Mississippi Drunk e anche a Valentina Conti che lo porta in scena. Un abbraccio e un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi, grazie mille, a prestissimo, ciao a Ciao. tutti.